Canta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Un tema, diciamo, che sta emergendo ora, negli ultimi minuti, perché c'è una mozione del Partito Democratico molto critica, diciamolo subito, nei confronti della Banca d'Italia, perché la mozione sostanzialmente che adesso a cui tra l'altro il governo ha detto sostanzialmente sì, non fa un nome alternativo a quello di Visco. Da questo punto di vista sappiamo che la Banca d'Italia è in scadenza e bisogna pensare a un nuovo governatore. Da tutte le indiscrezioni di questi giorni andavano verso una riconferma abbastanza netta dell'attuale governatore Visco, però Ignazio Visco, però i democratici sono contro il rinnovo del mandato al governatore uscente. Il PD ha presentato in aula alla Camera una mozione che non rinnova l'incarico del governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco, mandato che scade a fine ottobre e quindi ci siamo. Tra l'altro è chiaro che tutto questo avviene in un periodo di campagna elettorale e sappiamo che nei confronti della Banca d'Italia nei mesi, negli anni passati, molte critiche si erano levate per lo scarso controllo debole, e mi riferisco ai crack delle banche venete, ma non solo. Venne chiamato in mezzo anche per la vicenda Etruria, Popolare di Chieti e ancora Ferrara e Marche. E su questo c'erano state un po' di tensioni. La presa di posizione di pochi minuti fa invece è netta ed è la linea del segretario del PD Matteo Renzi. Dice infatti: il PD impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'efficacia dell'attività di vigilanza sul sistema bancario a fine della tutela del risparmio e della promozione di un maggiore clima di fiducia dei cittadini, individuando tal fine nell'ambito delle proprie prerogative la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell'istituto. La nomina dell'attuale governatore, scrive ancora il PD, risale al novembre del 2011 ed è pertanto imminente l'obbligo di procedere al rinnovo della carica, e questo poi cita tutta la procedura di decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Ma insomma, la parte più, posso usare il termine non velenosa, ma più critica, è un passaggio nel testo della mozione in cui si rileva che le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il Governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche e risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull'intero sistema bancario. E quindi, dice, traduco se posso la mozione del PD, serve un nuovo passo nella vigilanza bancaria, anche a quello, soprattutto per quello che è successo nel passato, dove poi è dovuto intervenire il governo, il Parlamento e quindi le risorse pubbliche per sanare situazioni, mi riferisco alle quattro banche più piccole, ma poi soprattutto Veneto Banca e Popolare di Vicenza, situazioni che altrimenti avrebbero avuto un effetto devastante sul sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito del sistema produttivo. Insomma, è una critica bella e buona, non si può chiamare in altro modo. Ed è arrivata, ripeto, abbastanza a sorpresa questa mozione, che è stata diciamo, adottata anche dal governo. Di questo parliamo in apertura. In realtà l'idea era di parlare anche delle banche italiane sotto tiro delle ultime settimane. Moody's ha mantenuto, una delle più importanti agenzie di rating a livello mondiale, ha mantenuto un outlook, quindi una prospettiva negativa sul sistema bancario italiano, alla luce anche di quanto vorrebbe fare la Banca Centrale Europea sulle sofferenze bancarie. Moody's ricorda che a fine del 2016 le nostre banche avevano in bilancio 350 miliardi di crediti deteriorati, lo stock più alto in Europa, questo lo sappiamo però, e sappiamo anche che la situazione dei non performing loans, delle sofferenze bancarie, stava migliorando, tant'è che l'ABI ad agosto ha registrato un numero di sofferenze ai minimi dal 2013. Il problema è cosa capiterà dal 1 gennaio 2018 se la Banca Centrale Europea adotterà quanto vorrebbe adottare come meccanismo. Il ministro Padoan oggi ha detto che la questione delle sofferenze bancarie sta subendo un'accelerazione positiva, lo stock delle sofferenze è diminuito del 25% da inizio anno, il rapporto di Moody's non rispecchia la realtà. Devo dire, a me non frega nulla di dare ragione né a Moody's né a Padoan, però un rapporto dell'agenzia di rating che cita il dato delle sofferenze bancarie a dicembre 2016, quantomeno possiamo dirlo che è un po' vecchiotto. Ammette Moody's che grazie a un insieme di operazioni grazie agli accantonamenti soprattutto la situazione è migliore, il 51%, appena sopra il 50% del livello pre-crisi. Ma ripeto, al di là di questo parleremo anche della Banca d'Italia. Poi, come sempre, la manovra finanziaria, perché dico come sempre? Perché ogni anno che ci occupiamo della manovra di bilancio, poi arrivano altri dettagli su provvedimenti singoli, per cui oggi sono arrivati dettagli sul reddito di inclusione, fino a che tetto 540 euro per le famiglie numerose, dovrebbe coinvolgere 650.000 famiglie, ma non solo, vi sono anche altri elementi che ascolteremo, di cui parleremo più avanti. E poi il rapporto di cui vi hanno già parlato i nostri GR24, il rapporto Migrantes, perché purtroppo va anche precisato. Abbiamo sempre detto che è cosa buona e giusta che un ragazzo o comunque una persona che sia da poco formata faccia un'esperienza all'estero e vada anche all'estero. Il problema vero è il tasso e soprattutto il tasso basso di ritorno di queste persone. Lo dico per evitare la demagogia, oddio, vanno tutti all'estero. Andare a fare un'esperienza all'estero è più che interessante e anche, ripeto, serve. Altra cosa è restare in via definitiva all'estero. Nel 2016 124.000 italiani sono espatriati, più 15% rispetto al 2015, sono soprattutto giovani, il 40%, tra i 18 e i 34 anni, più 23%, solo il 10% ha tra i 50 e i 64 anni. Il rapporto li definisce disoccupati senza speranza, rimasti senza lavoro. Dal 2006 la mobilità italiana ha fatto più 60%. Sono quasi 5 milioni a questo punto gli italiani all'estero, secondo i dati delle iscrizioni all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e è un dato che è del 60% più alto nei pre-crisi. Nel 2006 erano poco più di 3 milioni. E allora, tra l'altro la metà risiede in un paese europeo, però poi c'è anche l'Argentina, lì bisogna capire un insieme di cose, la Germania a 720.000, Svizzera 600.000. Il paese che ha visto aumentare di più le iscrizioni è stato nell'ultimo anno la Gran Bretagna, 27.000 in più, poi la Germania 20.000 in più, Svizzera più 11.000, Francia più 11.000, Brasile più 6.000, Stati Uniti più 5.900, quasi più della metà proviene dalle regioni del nostro Mezzogiorno. Ne parleremo a lungo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Andiamo con le notizie in breve. E come sempre la borsa in apertura, meno 0,30% Milano, che è tra le peggiori, devo dire, a livello europeo, anche peggio di Madrid, nonostante l'arresto dei due leader indipendentisti e la marcia, la protesta che dovrebbe iniziare alle 19 ore italiana. Madrid guadagna lo 0,60, Londra più 0,16, Dow Jones più 0,18, Francoforte più 0,13, Parigi più 0,16, Milano meno 0,30, ed è insomma tema di questi giorni. Sono soprattutto alcuni titoli assicurativi, questa volta però non sono le banche a farla da padrone, perché Banca Generali sì è la peggiore, perde il 3%, poi c'è Mediaset meno 2,20, Campari meno 2, Fineco Bank meno 1,70, Saipem meno 1,5, Unipol meno 1,30 come Exor, Poi generali perde l'1,20 come Fiat Chrysler e Leonardo, ex Finmeccanica. L'1% è il calo di Hughes Net-a-Porter, del Banco BPM, ma anche di Mediolanum e Recordati. Positiva Enel, più 1 come ST Microelectronics, 0,50 lo guadagna Ferrari e A2A, ma anche Italgas. Euro sotto quota 1,18, 1,17,50. Ancora andiamo avanti con le notizie internazionali. Una notizia buona per i nostri produttori di formaggio. Ce ne eravamo occupati perché il mercato cinese è un mercato di sbocco importante. L'Italia ha fatto più 32% di vendite nei primi 7 mesi. È chiaro che si partiva da volumi bassi, ma la tendenza è importante. Perché lo cito? Perché oggi la Cina ha riaperto le porte ai formaggi erborinati, tra cui c'è il nostro Gorgonzola, ma non solo. Quello operato a fine agosto delle autorità di Pechino, Assolatte chiaramente è contenta, e tra l'altro la comunicazione è arrivata dalla stessa ambasciata italiana di Pechino. Continua a salire invece l'inflazione in Gran Bretagna, 3% quasi ci siamo nel mese di settembre rispetto al 2,9 di agosto. L'andamento è determinato soprattutto dal rincaro dei prezzi nel settore trasporti alimentare, conseguenza anche di una sterlina debole nei confronti di euro e dollaro dopo, per via della vicenda Brexit. Brexit, su cui oggi è intervenuto di nuovo il capo negoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier, ha detto: bisogna accelerare, ma per accelerare bisogna essere in due. Nel frattempo, per quello che riguarda un tema che a noi sta molto a cuore, l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, perché Milano concorre con altre grandi città europee, e nel fine settimana segnalo che c'era stata una certa apertura di alcuni paesi, penso alla Croazia, ma non solo, nel sostenere Milano. Oggi il ministro degli esteri greco Katrougalos ha proposto ai colleghi che partecipano alla conferenza del Sud Mediterraneo di sostenersi a vicenda, cioè i paesi del Mediterraneo si sostengono a vicenda, e sia sull'Agenzia Europea del Farmaco che sull'Autorità Bancaria Europea, le due delle più importanti agenzie che dovranno traslocare da Londra. Se passiamo al secondo turno contiamo sul sostegno italiano, e se ci sarà Milano lo voteremo, ha aggiunto il ministro degli esteri greco. Visto che parlavamo di dati economici italiani, di commercio con l'estero, abbiamo i dati anche di agosto. Crescita sia delle esportazioni più 4,2% che delle importazioni più 3,5%. Trainano soprattutto chimica e manifattura, bene le vendite in Spagna e Francia. Rispetto a un anno prima, ad agosto abbiamo fatto più 8,5% nell'export. Sostanze e prodotti chimici più 18%, attività manifatturiera più 12,6%, e poi metalli di base, prodotti di metallo, escluse le macchine e gli impianti, più 12,5%, farmaceutica, chimico, medicinale, botanica più 12%, macchine e apparecchi di precisione più 10%, prodotti alimentari, bevande, tabacco più 9%, e ripeto, nella parte europea i mercati di sbocco più forti sono Francia più 9 e Spagna più 9,2%. Qualcuno mi segnala anche, guardate che ci sono operazioni fatte da Bridgewater, il fondo che sta investendo, l'abbiamo parlato ieri, pesantemente contro il sistema bancario italiano, cioè scommette in un calo dei valori e dei corsi azionari. Non lo so, ne prendo atto, cioè prendo atto del messaggio che è arrivato come sempre al 349-238-6666. E allora andiamo col primo tema: banche sotto tiro dei mercati, ma a questo punto anche banchiere centrale sotto tiro da parte del governo. We'll be right back. Allora, ripeto per chi si fosse appena messo in collegamento, è arrivata una mozione del PD alla Camera, accolta dal governo, che non rinnova di fatto la fiducia, l'incarico, e la fiducia quindi non vorrebbe l'incarico dell'attuale governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, mandato che scade a fine ottobre, ed è la linea, lo dico senza tante interpretazioni, di Matteo Renzi, del segretario. Il PD impegna il governo, chiede ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'efficacia dell'attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini della tutela del risparmio e della promozione di un maggior clima di fiducia dei cittadini, individuando a tal fine nell'ambito delle proprie prerogative la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell'istituto. Siccome quando si parla della Banca d'Italia si usa anche un certo linguaggio in punta di penna, questo è molto forte per essere in punta di penna, perché se devi trovare una figura più idonea vuol dire che quella attuale così idonea non è stata, a garantire nuova fiducia nell'istituto vuol dire che attualmente, secondo il PD che impegna il governo su questo, non c'è fiducia in Banca d'Italia. Insomma, non so cos'altro dovesse aggiungere, non indica un nome chiaramente, ma c'è un'altra parte, dicevo, in cauda venenum, cioè più velenosa nella coda, che dice: le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, i risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sul sistema, sull'intero sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito al sistema produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Che vuol dire? E siccome il governo è intervenuto e anche il Parlamento per sanare queste crisi bancarie, per evitare il tracollo dell'attività produttiva, del sistema bancario e quant'altro, abbiamo maggior titolo a chiederlo, perché poi i soldi li abbiamo dovuti tirare fuori noi, o meglio gli italiani, ma la manovra per salvare le banche l'abbiamo dovuta fare noi, con tutti gli strali che si è beccato, aggiungo io, anche il governo. Su questo, professor Donato Masciandaro, docente di economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera dottor Barisoni, a lei grazie per l'invito. Professore, poi parliamo anche di Padoan, di Moody's e di questo atteggiamento della BCE e di fondi che iniziano a speculare contro le banche italiane, e di un Moody's, a mio avviso, che insomma, vabbè, non voglio dare commenti in questo caso. Possiamo però iniziare da questa quella mozione del PD. Lei se l'aspettava? Allora, è da settimane che si sapeva che Renzi non era per una riconferma di Visco. Però abbiamo anche letto che Visco invece gode di ampio appoggio da parte del Quirinale. Una mossa così lei se l'aspettava? Fa parte del dibattito politico, visto che si va verso le elezioni e ci si vuole, aggiungo io, anche smarcare, tra virgolette, nei confronti della Banca d'Italia, perché sappiamo che sull'elettorato pesano anche le vicende bancarie? No, non me l'aspettavo. Mentre lei raccontava questo comunicato, l'ho letto. Io provo a riassumerlo così. C'è stato un incendio, crisi bancarie, abbiamo dovuto spenderlo, quindi i contribuenti hanno pagato. Poiché la colpa potrebbe essere della Banca d'Italia, modifichiamo i suoi vertici. Ecco, è il sinallagma che ad oggi non sta assolutamente in piedi, nel senso il dubbio sul ruolo della Banca d'Italia nelle crisi bancarie è davvero una tesi opinabile. Chi l'ha scritta dovrebbe spiegarla, perché ad oggi c'è anche una commissione d'inchiesta parlamentare. Quindi la risposta alla tua domanda, assolutamente sì, una sorpresa. Uno, perché c'è una tesi opinabile. Due, perché il sinallagma tra il ruolo della Banca d'Italia e il fatto che le crisi siano costate, beh, le crisi sono costate per una serie di ragioni, e il numero dei protagonisti comprende da responsabili di governo al disegno delle regole europee. Insomma, mi sembra qualcosa veramente di arraffazzonato. Oh, devo dire che lei è in linea, Masciandaro, non so se la cosa le faccia piacere o no, o non gliene freghi nulla, con Pierluigi Bersani, che ha appena parlato e ha detto: dunque, la mozione del PD è fuori da ogni logica, non puoi buttare in piazza la Banca d'Italia così. Quando vedo il partito di maggioranza fare una mozione così, cominciamo a essere fuori come un balcone. Questa espressione di Bersani. Così dopo il voto sulla mozione che mi ha votato in bianco, perché il Parlamento, aggiunge Bersani, può e forse dovrebbe prevedere un meccanismo di nomina che coinvolga le commissioni, magari con una maggioranza qualificante, ma finché c'è un'altra procedura, se c'è un minimo di senso delle istituzioni dobbiamo rispettarla. Poi qui vai a capire se Bersani va contro la mozione del PD perché va contro il PD in generale o gli va contro soprattutto nel merito. Io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però dopo il metodo vorrei capire da lei se da un punto di vista, diciamo, della realtà dei fatti è vero che la Banca d'Italia è uno dei protagonisti, poi c'era la Consob, c'è un'autorità di vigilanza di altro genere, ma soprattutto in alcuni casi le sofferenze si sono create anche perché è crollata l'attività produttiva, in altri casi penso a Etruria, ma non solo, penso anche alla Cassa di Risparmio di Genova, penso a buona parte di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, c'erano degli affidamenti senza garanzia, quindi quelli che vengono chiamati gli amici degli amici, e poi si è tentato di tenere tutta la baracca in piedi con le famose operazioni baciate, quindi dando mutui per comprare azioni collocate a prezzi allucinanti, inverosimili, l'abbiamo raccontata mille volte. Vorrei capire però, professor Masciandaro, se da un punto di vista politico invece la cosa non sia abbastanza immaginabile, perché nessuno in questo momento vuole diventare il difensore della Banca d'Italia, sapendo che Vox Populi, Vox Dei, insomma, nell'opinione pubblica non è che goda di grande stampa la mancata vigilanza, secondo la vulgata, della Banca d'Italia. Quindi un po' ce lo dovevamo anche aspettare. Dopo il metodo invece la sua opinione su questo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti, e beh, so il fuoco, è il fuoco, è quello che in questo momento brucia, diciamo metaforicamente, ci mancherebbe, sulla sede del governatore Visco, perché ricordo che si fosse messo in collegamento, è arrivata una mozione abbastanza sorpresa del PD, durissima nei confronti dell'operato della Banca d'Italia, delle conseguenze che ha portato come costo per la collettività e obbligando il governo e il Parlamento a tirare fuori i soldi per salvare le banche, e chiedendo una nuova banca, un nuovo indirizzo, un nuovo passo, un cambio di passo e quindi un cambio anche di governatore. Complessivamente i salvataggi bancari sono costati 24 miliardi, di cui 11 messi dai privati, 13 messi da noi, cioè da carico del pubblico. Questa è la situazione se dovessimo fare la fotografia ad ora. Devo dire, professor Masciandaro, che gli ascoltatori si dividono abbastanza in maniera uguale tra, o forse un pochino di più, quelli che danno ragione al PD pur non amando il PD. Cioè, molti si chiamano, a me non frega niente del PD, però è innegabile che la Banca d'Italia non abbia vigilato come doveva in questi anni con quello che è successo, e altri dicono, vabbè, Renzi che la butta in politica e fa il suo assalto a Visco. Non è però abbastanza immaginabile, professor Masciandaro, al di là delle singole dinamiche, altri mi citano, ma guardate che Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono esplose solo perché è intervenuta la vigilanza della BCE, sappiamo che la BCE a un certo momento, la Banca Centrale Europea, si mette a vigilare, vado a memoria, mi sembra 2014, si mette a vigilare sulle principali banche dei singoli paesi, tra cui anche le due popolari, e lì scopre le magagne. Non era immaginabile che... in vista di una campagna elettorale, il tema di come è stato possibile avere tutti questi crack bancari, al di là delle sofferenze in generale, ma di quei crack, diventasse oggetto politico, di scontro politico? Allora, reagisco alle sue domande. La prima è quella sulle responsabilità della Banca d'Italia. Lei ha segnalato che una parte degli ascoltatori ha detto è innegabile che ci siano delle responsabilità. Questo è il tipico esempio di fake news. Non esiste alcun documento in cui sia possibile dire che c'è stata la cosiddetta colpa in vigilando. Riutilizzando l'esempio dell'incendio, non c'è alcuna prova ad oggi, alcun documento credibile che possa dirci che ci sia stata una cattiva vigilanza. Questo è il primo punto, quindi non è assolutamente vero che è innegabile che. Il secondo punto, lei dice è indubbio che la Banca d'Italia non è popolare. E allora? Mi spiego, le banche centrali non devono raccogliere voti, le banche centrali non devono essere popolari. Questa è la ragione che distingue il politico dalle istituzioni indipendenti. La banca centrale deve essere indipendente. Non è un caso che negli Stati Uniti e in Italia, quando ci si avvicina al tema delle nomine, parte un dibattito che ha pochissimo di tecnico, pochissimo di razionale e molto di politico. Quindi la risposta alla sua domanda è non sono sorpreso di questo che accade, forse sono un po' sorpreso dei tempi e della robustezza del documento, che è nulla. Quindi la debolezza del documento a quel punto. Sì, la debolezza. Cioè, dico, se la robustezza è nulla, è debole. La debolezza è la robustezza con meno davanti. Ecco. Però altri ascoltatori, professor Masciandaro, io cerco di tenere assieme appunto, guardate che nella vita, lo dico a chi scrive, non è tutto bianco, tutto nero, ma non vuol dire essere, fare a muinna, come dicono a Napoli, vuol dire semplicemente che un conto è il ragionamento che si fa sulle colpe e le responsabilità oggettive, su cui indaga la magistratura, ma non solo, c'è anche appunto una commissione parlamentare e lì bisogna entrare nel merito, nei singoli dettagli. Altra cosa è parlare della dimensione politica. Glielo dico, professore, perché molti mi dicono, va bene, ma a questo punto se il partito di maggioranza che sostiene il governo ti sfiducia, tu, al di là del fatto che sia vero o non vero, al di là del fatto che le responsabilità siano così da imputare alla Banca d'Italia, oppure sia, diciamo, il sentito dire, l'idem sentire, vox populi, ma se uno poi va nei dettagli, non c'è ancora un elemento, come diceva lei, per l'accusa di omessa vigilanza, nessun documento serio. Però a questo punto non dovrebbe dimettersi comunque Visco, non ricandidarsi. Qui viene in mente una cosa che ai più forse non ricorderanno, mi riferisco a Sarcinelli, fu una vicenda molto brutta quella, non paragonabile a quella attuale, in cui fu messo di mezzo l'allora governatore della Banca d'Italia ingiustamente. Però la domanda c'è tutta, va bene, l'accertamento di quello che è successo, le procure ancora indagano, la commissione parlamentare ha appena iniziato i lavori, se li ha iniziati, è una cosa, ma dal punto di vista politico, visto che la nomina del governatore comunque arriva dalla politica, non arriva da un soggetto terzo, Visco dovrebbe dimettersi, non ricandidarsi. Allora, lei ha fatto bene a ricordare una delle pagine più buie della nostra storia, in cui una parte deviata della magistratura e una parte altrettanto intossicata della politica colpirono il governatore Baffi e il suo più vicino assistente, Sarcinelli, il professor certo. Sarcinelli. Ha fatto bene a ricordarlo perché la politica deve stare lontana dalle istituzioni. La banca centrale è organo che ha un compito che non deve essere sottoposto alla pressione della politica del giorno dopo giorno. Quindi c'è un percorso in cui peraltro c'è una interazione tra il governo e il capo dello Stato, sentito il Consiglio Superiore della banca centrale, il governo dovrà prendersi le sue responsabilità, il capo dello Stato. Qui il partito di maggioranza relativa non c'entra nulla, perché le istituzioni sono una cosa e la politica del giorno per giorno è un'altra. L'istituzione deve avere un orizzonte lungo, la politica per sua natura è miope e lo vediamo dai documenti che produce, tipo quello di oggi pomeriggio. Ecco, professore, per quello che riguarda la mia opinione, d'accordissimo con lei che la politica debba stare distante da magistratura e da istituzioni di vigilanza, perché ragazzi, non scherziamo su questo, uno si studi la storia di questo paese, meno male che abbiamo avuto il più possibile Banca d'Italia e in alcuni casi il più possibile la magistratura indipendente. Il che non vuol dire però, professore, che non sbaglino mai né la Banca d'Italia né i magistrati. E cioè, no, nel senso che l'autonomia dalla politica non vuol dire l'autonomia dal giudizio, non popolare, perché non abbiamo i tribunali del popolo, ma insomma il giudizio che uno può dare, scusami, abbiamo beccato un insieme di crack bancari, io personalmente penso che qualcosa non abbia funzionato nel ruolo degli ispettori, glielo dico molto tranquillamente, professore, è una mia opinione del tutto personale, e cioè che soprattutto... Ma anche con Etruria, per quello che stiamo vedendo, ma in Veneto, se Veneto Banca parla di Vicenza, ci siano state delle leggerezze su questo. Poi però io non faccio il magistrato, non sono nella commissione d'inchiesta, è la mia valutazione del tutto personale. Ma le ripeto la domanda, a questo punto però, siccome è il governo che poi nomina, nella procedura più articolata, il governatore della Banca d'Italia, siccome il governo ha recepito la... mozione del PD, a questo punto se lei fosse in Visco si dimetterebbe? Non sono così in alto da poter dare questa risposta. Se il governo farà una scelta diversa, credo che l'attuale governatore Visco ne prenderà atto. Come lei ha ricordato, è il governo che deve fare il suo passo, quindi in questo, quello che il governatore Visco possa pensare, credo che per il processo non è rilevante, nel senso che è un servitore dello Stato. Se il governo decide di riproporre il suo nome, credo che continuerà a servire lo Stato come ha fatto finora, in caso contrario ci sarà un altro nome. Allora professore, io l'avevo invitata per commentare le posizioni internazionali sugli NPL e le sofferenze bancarie, mi dia un ultimo giudizio, perché chiaramente il bello della cronaca, come si diceva una volta, il bello della diretta è anche questo, e secondo me da qua a marzo, vediamo quando si voterà, ne vedremo delle belle. C'è un accanimento, non penso solo al fondo internazionale Bridgewater, ma anche a Moody's di oggi, c'è un accanimento nei confronti di nuovo delle nostre sofferenze bancarie, è nato anche, o meglio alimentato anche da quel documento della Banca Centrale Europea, quindi la NUI, che dice nuove regole dal 2018, massimo 2 anni per i chirografari, massimo 7 anni per i prestiti, anche se hanno la garanzia di un mutuo? Telegraficamente, ci sono 2 caratteristiche del nostro paese, il debito pubblico e le sofferenze bancarie, che rappresentano il classico bicchiere. Chi vuol vederlo mezzo pieno o addirittura in progresso è da una parte, chi invece decide che quel bicchiere è mezzo vuoto oppure forse è conveniente romperlo dice l'esatto contrario, quindi da questo punto di vista non sono assolutamente meravigliato. Nel salutare le dico però quello che è il nostro del tutto improprio e anche inaffidabile sondaggio sulla base dei messaggi che stanno arrivando sia come SMS che come WhatsApp al 349-238-6666. Devo dire che la percentuale che vedevo prima, 60 contro Banca d'Italia, 40 contro il PD, si sta spostando nettamente contro la Banca d'Italia, nel senso che molti stanno scrivendo che al di là del PD, di Renzi, che non votano, non gliene frega nulla, il messaggio che sintetizza la maggior parte dei messaggi è quello di poco fa: se la casa brucia il sistema antincendio ha fallito e quindi qualche responsabilità ce l'ha. Questo è il tenore dei messaggi, e se devo tradurla in politica vuol dire che il PD con questa mozione si è posizionato, mettiamolo in questo modo. Poi sono d'accordo con lei che non si possa buttare in politica un accertamento reale delle responsabilità, ma io devo anche dare atto di quello che è l'opinione degli ascoltatori di questo programma. Ti ripeto, sondaggio del tutto empirico, del tutto con poco valore, ma ve lo volevo citare. Grazie anche a Donato Masciandaro, che insegna da Bocconi ed è editore del Sole 24 Ore. Traffico. Focus Economia. To let myself. Allora, c'è qualcuno che si chiama insomma, guardate che ripeto, la mia posizione è che politicamente, ma poi chi se ne frega la mia posizione è politicamente che la Banca d'Italia in qualche modo non possa chiamarsi fuori politicamente. Masciandaro, il professor Masciandaro faceva un altro ragionamento e di carattere, non dico quasi investigativo, ma insomma sulle responsabilità oggettive su documenti che vadano a provare l'assenza di vigilanza, mancata vigilanza, controllo, l'omessa vigilanza, controllo, non c'è nulla. E anche la magistratura, vedremo a che conclusione arriverà, e a che conclusione arriverà la commissione parlamentare. Poi politicamente, che uno dica vabbè, la casa è prebruciata, io voglio un sistema antincendio, non è che il sistema antincendio è, ma forse era sottodimensionato, era mal strutturato, uno ne prende atto. Mi sembra che, io sono d'accordo con molti ascoltatori, ma sono due valutazioni diverse, una sulla realtà dei fatti e una sull'opportunità di restare a fare il governatore dopo quello che è successo in questi anni al sistema bancario. L'opportunità non è un elemento giuridico di inchiesta, di commissione parlamentare, di magistratura. L'opportunità è una valutazione anche personale che uno fa, e nel caso specifico l'opportunità politica del PD nel mettere sotto il riflettore, sotto attacco Visco, è chiarissima, anche alla luce di quello che scrivete. Flavia Carletti di Radio Colle sulle 24 ore, la borsa, allora pochi spunti, perché Milano perde rispetto alle altre borse che fanno più 0,2, più 0,1, penso a, anzi alla fine Parigi, Francoforte invariate, Dow Jones invariato, Londra meno 0,14, Milano meno 0,40, Banca Generali meno 2,90. Sì, buonasera a tutti. Appunto, Milano ha perso col FTSE MIB 1,04%, facendo peggio delle altre borse europee, penalizzata proprio dalle performance soprattutto di bancari e finanziari, che hanno trascinato il listino rispetto agli altri europei, che poi alla fine hanno chiuso più o meno invariate, con l'eccezione di Madrid, che è andata meglio delle altre, trascinata dal balzo di uno dei titoli, titolo delle una società di costruzioni sulle voci di interesse di un fondo australiano. Quindi, diciamo, nonostante ci sia stata cautela oggi, soprattutto in attesa ancora di sviluppi sulla situazione della Catalogna, Madrid ha fatto un po' storia a sé per altre questioni. Sì. Tornando appunto a Milano, Banca Generali è stata la peggiore del FTSE MIB con un calo del 2,88%, appunto in una giornata in cui proprio tra assicurazioni, risparmio gestito e banche sono stati, diciamo, tra i titoli più penalizzati. Comunque la giornata poi alla fine è stata negativa un po' anche per gli industriali, diciamo che in una situazione un po' di cautela, di attesa, per esempio si è andate a realizzare su alcuni titoli e ma anche in mancanza di spunti nuovi, per esempio c'è stata molta attenzione su questo rapporto di Moody's che ha confermato l'outlook negativo sul settore bancario italiano, quindi si è tornato di nuovo a parlare di NPL, anche se non ci sono in realtà grosse novità sul comparto. Allora Flavia, resta con noi perché adesso al GR24, a chi mi scrive Ruffiano, tanto sapevo che arrivavamo lì, poi arriverà anche Pilatesco da Ponzio Pilato. Guardate che si possono tenere assieme due cose, la realtà è più complicata delle scusatemi, di molte semplificazioni. Un conto è la responsabilità giuridica accertata della Banca d'Italia, dove ci sono delle categorie, delle fattispecie, cioè un mancato controllo, mancata vigilanza e quant'altro. E lì ha ragione il professor Masciandaro, non c'è nessun documento che inchiodi la Banca d'Italia. Poi vedremo come andranno avanti le inchieste dei magistrati, ma al momento non c'è. Altra cosa è la valutazione politica che fa il governo, che fa la maggioranza, che dice come noi abbiamo dovuto beccarci tutti i salvataggi, le ire dei risparmiatori e quindi degli elettori, accollando 13 miliardi di conti al paese, e la Banca d'Italia evidentemente nella formula in cui è adesso non va bene perché queste cose non le ha viste, magari non per dolo ma semplicemente non le ha viste. Sono due cose diverse, politicamente sta in piedi la seconda così come giuridicamente sta in piedi la prima. GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto e non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. To let myself flow, to let myself flow. E 9 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 dopo l'iniziativa del PD accolta dal governo di una mozione, diciamola tutta, di sfiducia, non è proprio così, ma insomma di estrema critica nei confronti della Banca d'Italia, e quindi nel richiedere un passo nuovo e quindi un nuovo nome, non quello dell'attuale governatore Ignazio Visco, che scade a fine ottobre. Anche per i costi che il governo e il Parlamento hanno dovuto sostenere, o meglio gli italiani hanno dovuto sostenere, ma attraverso iniziative fatte dal governo e Parlamento, di salvataggi bancari costati 13 miliardi per ora a carico dei contribuenti, 11 miliardi sono stati messi invece dai privati. Vedo che altri dicono, ma insomma qui è una guerra in cui uno cerca di scaricare l'altro, il PD come partito di governo cerca di scaricare la Banca d'Italia, di dare tutte le responsabilità alla Banca d'Italia. Altri continuano a dirmi, va bene, al di là di quelli che saranno gli esiti della magistratura e anche della commissione parlamentare, la Banca d'Italia non può chiamarsi fuori nel ruolo che non ha avuto dopo tutte le crisi bancarie che ci sono state in questi paesi, con ripeto, non stiamo parlando delle crisi, gli scandali, i crack, non le sofferenze che le banche hanno accumulato perché è crollato il PIL del paese e molte imprese sono andate in difficoltà. Qui parliamo delle vicende ormai note: Etruria, Genova, Popolare di Vicenza, Veneto Banca. E vedo che molti dicono, al di là di quello che sarà il risultato delle inchieste, c'è una responsabilità così, morale, e non dovrebbe ricandidarsi lo stesso Visco. Vedremo. Sulla responsabilità politica del governo sulle crisi bancarie, adesso lasciamo stare le singole vicende, tanto tutti citate Etruria e il padre della Boschi, ma la responsabilità politica del governo è un po' più dura, quella, perché obiettivamente le magagne se le è trovate anche il governo Renzi. Per anni i governi precedenti ci hanno detto che il sistema bancario italiano era diverso dagli altri, e io non difendo mai necessariamente la politica, però oggettivamente tra chi è deputato a vigilare come Consob e Banca d'Italia, nel caso che fossero quotati anche la Consob, e i governi che si sono succeduti, non so, stavolta mi sembra che la politica non abbia il ruolo principale, mi sembra. Vabbè, Flavia Carletti, ti ho interrotto nell'analisi sulla borsa, ti ricordavi quanto pesi ancora il ragionamento sulle sofferenze bancarie e sui titoli bancari italiani, e questo l'abbiamo visto oggi, anche se in cui Milano è stata la peggiore. Tra chi è andata meglio invece, A2A più 0,70, ST Microelectronics più 0,70, Enel più 0,70, Ferrari meno 0,40%. Attesa poi dal Consiglio di amministrazione del Banco BPM, e per quello che riguarda il Banco, non ho visto notizie, però in questo momento Banco BPM perde l'1,60%. Telecom Italia. Sì, Telecom Italia oggi ha cercato, diciamo, un parziale recupero dopo l'introduzione della Golden Power, da parte della decisione del governo di usare la Golden Power, e però poi alla fine in chiusura il titolo comunque ha perso lo 0,20%, quindi c'è il mercato che si interroga su poi quelli che saranno gli effetti sulla società della decisione del governo, e ci sono alcuni analisti che iniziano a fare dei ragionamenti, parlano comunque di misure invasive nei confronti della società, soprattutto perché appunto dovrà creare questo comitato di sicurezza, e ci sarà quindi anche dovrà essere informato il governo ogni 6 mesi tutta una serie di attività considerate strategiche, e quindi diciamo adesso si aspettano novità, anche se poi alcuni dicono ora che c'è un po' di chiarezza da parte di quelle che sono le indicazioni potrebbe esserci di nuovo interesse sul titolo, quindi diciamo che oggi ha avuto appunto un andamento a due facce, perché il mercato appunto si sta un po' interrogando su queste misure che da una parte sì sono invasive, però c'è anche chi dice in fondo sono in linea con le attese e potranno la società è in grado di far fronte a tutte le prescrizioni del governo, quindi in qualche modo l'andamento del titolo è un po' ha rispecchiato questo nel corso della giornata. Migliori e peggiori: la Lazio più 12,20, Exprivia più 10,60, Safebag più 7,5, CHL più 6,80, fronte opposto Mondo TV meno 8,70, Mondo TV Swiss meno 7,50, Alfio Bardolla meno 5,40, Unieuro meno 5,30%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi torniamo sulla manovra per alcune novità, perché come sempre quando esce, come è uscita dal Consiglio dei Ministri, la legge di stabilità, Poi si va a vedere nei dettagli, ci sono anche novità in più rispetto al quadro generale di ieri. Allora, vedo che molti dicono sì, ma nel caso del Monte dei Paschi era la banca del PD. Beh, voglio dire, da questo punto di vista i rapporti tra PD e banca, ne abbiamo parlato moltissime volte, non c'è solo il Monte dei Paschi in questa vicenda, lo dico in maniera molto netta. Vabbè, adesso voglio chiudere con questo tema e andare invece da Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni, per le novità ulteriori sulla manovra che, da quello che ho visto, riguardano soprattutto il reddito di inclusione. Gianni. Sì, buonasera, buonasera a voi. La manovra sta prendendo appunto forma dopo l'approvazione, come sempre capita, prima si approva e poi si scrive la manovra in Italia e come dire, viene rilanciato tra gli altri temi quello appunto del reddito di inclusione, che verrà rifinanziato con almeno 400-500 milioni dalla legge di bilancio, e che quindi arriva, supera i 2 miliardi di dote, e questo permette di avviare davvero questo nuovo strumento di lotta alla povertà, di crescita inclusiva, che è stato approvato nei mesi scorsi. Poi c'è da mettere a punto tutto il riparto delle coperture in una manovra che rimane, nonostante gli aggiustamenti progressivi, piuttosto stretta, perché comunque oltre 15 miliardi di euro su 20 del valore totale della manovra servono alle solite clausole di salvaguardia per l'IVA, e per il resto rimane pochino, comprese le misure di decontribuzione per i giovani neoassunti. Viene confermata la decontribuzione totale quando i giovani sono neoassunti al sud, e per il rilancio degli investimenti pubblici ci sono circa 350 milioni di spazi in più per i comuni. E questo per quello che riguarda reddito di... Altre novità appunto nel leggere i dettagli della manovra, al di là dell'impianto complessivo e del fatto che sia una manovra minima, cioè solo 4 miliardi che si liberano, perché il grosso, 16 miliardi, se ne va per le clausole di salvaguardia per evitare l'aumento dell'IVA. Ricordo 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1 miliardo e 3 nel 2019, 2 miliardi nel 2020. Le politiche a favore dei giovani, vabbè, essenzialmente 300 milioni che diventano 800 sui contratti nel 2019 e 1 miliardo e 2 nel 2020. Lì la parte grossa era fare la riduzione del 50% dei contributi per i neoassunti fino a 35 anni, 100% se sono al sud. Altre novità, dicevo, già ne trovati dopo il commento che ha fatto sulla manovra finanziaria il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, a microfono la nostra Teresa Trillò. Il nostro è un giudizio sostanzialmente positivo, nel senso che non ci aspettavamo una manovra, diciamo, di dimensioni maggiori, e questo in virtù anche delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro Padoan, il sentiero stretto, e quindi sapevamo che le risorse sarebbero state limitate. Però ci sono alcuni elementi rilevanti anche da un punto di vista, diciamo, di continuità delle policy. In primo luogo, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia vuol dire un non aumento della tassazione, e questo è un dato, diciamo, di rilievo. In secondo luogo, c'è continuità rispetto al piano 4.0, una cosa attesa da tutto il sistema industriale, e anche questo è molto importante. Poi vedremo i dettagli, non ci sono i testi disponibili al momento, quindi ci basiamo sulle informazioni che circolano, però questo è un dato molto rilevante. In terzo luogo, ma non per importanza, anzi per importanza il primo, è passato il messaggio che la misura chiave della manovra è una misura a favore dei giovani. Non dell'intensità che ci saremmo aspettati e che sarebbe stata necessaria, però è un cambio di paradigma, nel senso che i giovani finalmente sono messi al centro della politica economica del governo per i prossimi 3 anni. E questo è sicuramente un messaggio molto, ma molto importante. Questo per il giudizio sull'impianto complessivo della manovra da parte del direttore generale di Confindustria Marcella Panucci. Gianni Trovati, altri elementi? Sì, 2 cose molto pratiche che interessano da vicino le categorie, diciamo così, colpite in maniera positiva. Tornano gli scatti biennali per i professori universitari, la cui assenza aveva creato lo sciopero degli esami che è stato fatto nelle scorse settimane, e arriva un aumento in più in busta paga per i presidi per allineare i loro stipendi a quelli degli altri dirigenti pubblici che guadagnano più di loro. Grazie anche a Gianni Trovati. Traffico e poi rapporto migrantes, abbastanza insomma inequivoco sulla fuga degli italiani all'estero: sono 15% in più l'anno scorso le persone espatriate rispetto al 2015, il 40% sono giovani. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Eh sì, più 15% la fuga degli italiani dall'estero, il 39% giovani tra 18 e 34 anni, più 23%, invece il 10% è tra i 50 e 64 anni. Il dato, se si guarda il pre-crisi, è ancora più impressionante: dagli italiani residenti all'estero, che erano nel 2006 poco più di 3 milioni, sono adesso 5 milioni, più 60%. Questi gli italiani che si sono iscritti all'AIRE, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. La metà risiede in un paese europeo, più della metà di chi risiede all'estero proviene dal sud. Per quello che riguarda l'aumento dei flussi, il Regno Unito ha fatto più 27.000 nell'ultimo anno, seguito da Germania 20.000 italiani, 11.000 italiani in più in Svizzera, 11.000 in Francia, 6.800 in Brasile e 5.900 negli Stati Uniti. Ci sono partenze non solo individuali ma anche di famiglia, quindi sia per un nucleo familiare con i minori, sia la famiglia allargata, quindi, ci sono anche pensionati che si spostano all'estero, e poi aumentano anche i single che vanno all'estero. Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. La domanda è una ed è molto semplice, per cercare di non fare sempre così... E di portare il cervello all'ammasso, ecco la fuga dei cervelli. Io ho detto in apertura del programma, secondo me il fatto che soprattutto se sei un giovane, ma anche se non sei più così giovane, vuoi aumentare il tuo curriculum, non hai abbastanza offerte in questo paese, non c'è niente di male nell'andare all'estero, si fanno esperienze, si aumenta il curriculum, si fa formazione e quant'altro. Il problema è il numero di italiani che stanno andando all'estero o i saldi che però non ho sotto mano di italiani che non ritornano, oppure c'è un problema oggettivo al di là di chi ritorna in un numero così aumentato di italiani che scelgono di risiedere all'estero? Sì, io direi di fare proprio il punto sulle caratteristiche del fenomeno, visto che va a consolidarsi anno dopo anno. C'è stato l'effetto della crisi, come è stato detto, e però ormai siamo usciti dalla fase acuta della crisi e il fenomeno continua ad autoalimentarsi in qualche modo. Quali sono le caratteristiche? La quantità, che continua ad essere in crescita, la qualità, nella qualità ci sono soprattutto giovani e soprattutto qualificati, nel senso che non ci sono solo loro, ma è la componente che maggiormente cresce. Ci sono le intenzioni, anche i dati che noi abbiamo del rapporto giovane dell'Istituto Toniolo hanno fatto vedere come sia stato negli ultimi anni proprio un ribaltamento nell'atteggiamento dei giovani verso la possibilità di andare all'estero, e che combina opportunità e necessità, le combina in maniera più accentuata per i giovani italiani rispetto ai coetanei degli altri paesi, nel senso che nelle nostre analisi quello che emerge è che rispetto ai coetanei europei i giovani italiani siano sia quelli che considerano più positivamente la possibilità di fare esperienze sia di formazione che di lavoro anche all'estero, ma anche quelli che considerano maggiormente una necessità quella di andare altrove a cercare opportunità che poi non trovano nel proprio paese. E la percentuale di chi valuta la possibilità di andare anche oltre confine ha superato negli ultimi anni il 50%, che non vuol dire ovviamente che siamo davanti a un fenomeno di massa, ma vuol dire che ormai nella riflessione dei giovani, anche studenti universitari, non c'è tanto la scelta se andare ma se rimanere, che è proprio un ribaltamento. Poi c'è il saldo è, noi siamo uno dei paesi con maggior saldo negativo tra giovani qualificati che se ne vanno e giovani che dagli stessi paesi in cui vanno giovani italiani non arrivano nel nostro. Il rapporto è di 3 a 1 sostanzialmente, se guardiamo soprattutto i giovani e i laureati, ne perdiamo 3 e ne attraiamo 1. E poi c'è comunque la questione del sistema paese, noi abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi, abbiamo meno laureati e però ne perdiamo di più e ne regaliamo di più ai paesi che sono concorrenti. Ecco, è l'insieme di tutte queste cose che dovrebbe farci guardare con attenzione a questo fenomeno, andando al di là però della retorica, nel senso che nei giovani stessi c'è la consapevolezza che un'esperienza all'estero sia positiva, il fatto è che quando fanno questa esperienza non ritornano, questo appunto è quello che poi va preso in considerazione, quindi maggiore opportunità e valorizzazione del capitale umano nel nostro paese è la risposta e maggior possibilità che questo diventi un fenomeno che sia una vera circolazione, ecco, di talenti, che non sia solo una perdita netta. Sì, in questo è fondamentale l'elemento salariale o non solo, se me lo dice in 40 secondi? Sì, non è quello più importante. Quello più importante è andare in contesto in cui chi si impegna, chi vale, chi si dà da fare viene considerato, viene preso appunto in considerazione, viene premiato e ha carriere più trasparenti e ha possibilità di cogliere maggiori opportunità. È evidente che poi legato a questo c'è anche la remunerazione più elevata, ma non è il primo motivo. Il primo motivo è vedere riconosciuto quanto uno si impegna e quanto vale, e questo purtroppo lo si ottiene di più negli altri paesi che nel nostro. È importante questo, perché la politica salariale sicuramente è fondamentale, però è proprio anche la sensazione che qua non venga riconosciuto, adesso io non voglio generalizzare, in molti posti il merito viene riconosciuto anche in Italia, però faccio riferimento alla nostra poco invidiabile classifica, casi recenti sulle baronie in università, sui concorsi, parleremo anche di quello successo a chi ha denunciato alcune cose, le Ferrovie Nord, tanto ormai è un libro e quant'altro, insomma. Quello forse sega ancora più le gambe, non solo la voglia di restare, ma anche la voglia di tornare, di quanto non possa essere l'elemento economico, o le sega in egual misura. Grazie anche ad Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia nella Facoltà di Economia alla Cattolica di Milano. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.